E quello sono le 12.03 qui Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa che è anche uno dei motori della campagna Genova 10%. Perché non dimentichiamo il fatto che ci sono 10 tra compagni e compagne che il 13 luglio vedranno la sentenza definitiva sul processo riguardante il G8 di Genova del 2001. Come diciamo, come ormai spero che sappiate, rischiano fino a 100 anni di carcere collettivi, in una media di 10 anni, tra i 6 anni e qualche mese fino ai 15 anni. E oggi proveremo a fare alcuni ragionamenti con qualche ospite radiofonico in preparazione del convegno che ci sarà martedì 3 luglio qui in Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo. Il titolo è Costruire il nemico, criminalizzazione degli indesiderati da Genova 2001 ad oggi. E alcuni di questi ragionamenti li faremo questa mattina partendo tra poco con Lino Pepino, autore tra l'altro di un libro uscito recentemente che dal titolo Non solo un treno, un libro scritto insieme a Marco Revelli. In cui all'interno c'è anche appunto un saggio giuridico che va a smontare quelle che sono le inchieste della Procura di Torino riguardante il movimento Notav. Poi avremo anche ospite Eugenio Losco che si occupa dei processi nei confronti di alcuni migranti per quanto riguarda le rivolte dentro i CIE. Migranti accusati di devastazione e saccheggio, lo stesso articolo 419 che è stato usato come capo di imputazione per i 10. Diamo il buongiorno al nostro primo ospite per questa mattinata, abbiamo Lino Pepino, autore, come dicevamo poc'anzi, di questo libro, insieme a Marco Revelli, Non solo un treno. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto ci dispiace che non avrete il tempo di venirlo a presentare qui a Roma, comunque un libro interessante che ne stavamo appunto parlando, in cui ci sono alcuni temi che stiamo affrontando e stiamo portando avanti anche in questi giorni sulla campagna per Genova, ma noi li portiamo avanti anche poi come presentavamo, stavamo anche presentando questo convegno che faremo qui a Roma per il prossimo 3 luglio, proprio perché trovavamo anche delle assonanze, no? Si parlava di costruzione del nemico e per quanto riguarda le inchieste torinesi sui Notav, la costruzione del nemico viene portata avanti e tu nel libro stesso la vai un pochettino, come si dice, ad abbattere, motivandola. Sì. Giusto? Sì. Ma sì, il tema della costruzione del nemico è un tema in realtà non recente. I nemici sono diversi dai migranti, che sono probabilmente il nemico principale, sì, a una parte dell'immigrazione, ai cosiddetti ribelli. indubbiamente c'è un diritto del nemico. Con diritto del nemico intendo una curvatura del diritto, sia della produzione legislativa, sia in qualche misura anche della interpretazione giudiziaria, una curvatura, dicevo, che tende a privilegiare degli interventi repressivi anziché degli interventi di mediazione, di confronto, di politica dei problemi. Tra l'altro noi notavamo il fatto, volevamo attraverso questo convegno, abbiamo provato anche ad allargare il discorso, perché il nemico non è per forza un soggetto politico, siamo chiari, il nemico ormai sono diventati alcuni comportamenti che vengono giudicati devianti, di conseguenza talvolta è uno dei nemici principali, giustamente uno dei folk devil, come dicevano i sociologi, sono sicuramente gli immigrati, però ci sono anche altri comportamenti che vengono classificati come nemici. Anche essere fermati in stato di tossicodipendenza o di ebbrezza automaticamente ti fa diventare un nemico per questo stato. E la costruzione del nemico è avvenuta anche per quanto riguarda i manifestanti no TAV. Anche oggi vedevamo degli articoli alquanto discutibili sui giornali, ne leggevamo uno questa mattina in rassegna stampa sul Corriere della Sera, che fa appunto, rientra in questa campagna. I no TAV in qualche modo hanno costruito il mostro no TAV, al di là di tutto. Allora, io credo di sì, credo anche che il discorso sia un pochino complicato, vedo di fare qualche battuta sì, senza dilungarmi troppo. Il primo problema è questo: c'è un problema come quello del TAV, è un problema rilevante, è un problema che coinvolge l'opposizione di un'intera valle alla costruzione di questo treno. Ci sono due risposte possibili: una, quella di cercare un confronto, un dialogo difficile, perché indubbiamente è difficile, ci sono degli interessi diversi, ci sono delle valutazioni diverse, ci sono dei giudizi diversi. Il problema di quella che è la cosiddetta democrazia partecipativa è quello di trovare i modi di confronto. La seconda modalità è quella di iniziare un confronto, come è accaduto in Valsusa, appena si vede che il confronto non porta alle soluzioni desiderate, delegare da parte delle istituzioni e della politica la soluzione del problema agli apparati, in particolare alla polizia e alla magistratura, cioè trasformare un problema politico in problema di ordine pubblico. E questo è il primo aspetto. Sì, che è anche una delle cose appunto su cui volevamo anche mirare. Ormai non c'è più un confronto politico, ormai il confronto avviene ovviamente tra manifestanti e polizia, non c'è più un'altra parte. Questo è di tendenza nella NOTAV, quanto in qualsiasi, anche sui luoghi di lavoro ormai è diventato questo. E questo è il, come dire, la concezione un po' sottesa a quella che chiamo il diritto penale del nemico, o il diritto del nemico in genere. Cioè evitare, saltare la mediazione e arrivare allo scontro. Allora, questo è una soluzione, quella dello che è una soluzione devastante per tutti. Allora io lo dico, lo vado dicendo in tutti i dibattiti, in tutti i luoghi, io credo che non sia una soluzione quella dell'uso della violenza, perché lo sappiamo, la storia ahimè ce l'ha insegnato che il surplus di violenza che viene utilizzato per condurre una battaglia poi si riflette anche nell'organizzazione sociale complessiva. Credo però che ci siano degli aspetti di violenza che vadano tutti considerati. Se una violenza complessiva di un sistema che rifiuta il dialogo e pretende di imporre delle soluzioni, ci sono delle reazioni che a volte assumono anche aspetti inaccettabili in termini di espressione di violenza. Se nell'intervento poi degli apparati, anche nell'intervento giudiziario, a volte una valutazione, come dire, a mio modo di vedere, tra le valutazioni possibili, particolarmente pesante di certi comportamenti. Per esempio, appunto, tu hai smontato in questo, l'hai smontato sul libro. Sul libro, insieme a Revelli, avete anche smontato appunto le varie inchieste che hanno portato poi in questi mesi, tra l'altro, in carcere delle persone, un carcere preventivo che è durato da il mese per i più fortunati fino a 6 mesi. l'avete smontato anche argomentandole in maniera abbastanza chiara, visto che quello che veniva imputato alla maggior parte dei manifestanti era alquanto, mettiamola così, particolare. Allora, sì, io parto dalla premessa che ho fatto prima. Io credo, ho fatto per 40 anni di magistrato, non l'avrei fatto se non avessi questa convinzione, credo che se ci sono dei reati, i reati vadano perseguiti. Questo non è di per sé un dato che sia indicativo di una repressione comunque generalizzata. Ho scritto e ribadisco che nell'intervento penale, anche nell'intervento penale doveroso, ci sono delle modalità che possono essere diverse. Le misure cautelari nel nostro sistema sono pressoché sempre, salvo casi rarissimi, facoltative, il che significa che spetta al giudice valutare se sono fatti tanto gravi da mandare in prevenzione le persone in carcere o se bisogna aspettare un dibattimento. Ci sono delle valutazioni che riguardano certi tipi di cui si è parlato in diverse occasioni, per esempio il concorso nel reato, fin dove si estende il concorso. Se io lancio una pietra, chi è vicino a me deve rispondere anche lui del lancio di quella pietra, perché con la sua presenza in qualche modo, tra virgolette, mi incoraggia, oppure la responsabilità penale è una responsabilità esclusivamente soggettiva. Ancora, nel valutare i comportamenti degli imputati o degli indagati di un determinato fatto, vogliamo distinguere? Io credo che ci sia una profonda diversità tra chi fa una resistenza passiva, tra chi afferra per un braccio un agente di polizia, tra chi cerca di impedire l'occupazione di una o lo sgombero di una certa area, tra chi risponde a una provocazione rispetto a chi arriva con un carico di armi improprie e le scarica contro le forze di polizia. Sono dei fatti diversi. Allora, credo che se sono dei fatti diversi vadano valutati in modo diverso. Tutto questo significa, a mio modo di vedere, un intervento rispettoso delle garanzie, mentre spesso quando si interviene in vicende di ordine pubblico c'è una tendenza a livellare tutto e a considerare tutto egualmente grave e a estendere la dimensione del reato anche oltre quelli che sono i suoi elementi costitutivi. Pronto, mi sa che c'è un problema tecnico, dunque credo che sia saltato la linea, tra un secondo tempo di richiamare e saremo nuovamente in diretta. Chiediamo scusa per il fatto che la telefonia ci ha piantato nel bel mezzo di un ragionamento. Rieccoci in diretta nuovamente, buongiorno di nuovo. Eccomi qua. Non ho idea però di dove si sia interrotta la diretta. Guarda, allora io riprendo lo spunto, penso che era abbastanza chiaro, riprendo uno spunto perché giustamente dicevi e ragionavi su quelle che sono le responsabilità, sul diritto penale individuale o no, eppure questo diritto penale individuale spesso e volentieri viene scavalcato, e viene scavalcato anche in qualche modo, ci viene in mente i processi di Genova di cui ci stiamo occupando, in cui gli imputati hanno un accollato, come si dice a Roma, un reato come quello di devastazione e saccheggio, che è un reato abbastanza insolito, che dovrebbe aprire anche un ragionamento su quello che è poi il nostro ordinamento giuridico, perché l'articolo 419 è un articolo che nasce in un preciso periodo storico, parliamo degli anni 30, usato per reprimere le rivolte popolari, in questo caso viene usato per i manifestanti di Genova, e quello che una volta erano i danneggiamenti e si veniva processati per dei danneggiamenti automaticamente diventa devastazione e saccheggio. In questo caso anche l'essere presente su una piazza, l'articolo 419 prevede la cosiddetta compartecipazione psichica, questo lo dico con gli avvocati, non lo dicono io, appunto la presenza in una piazza automaticamente ti rende responsabile di tutto ciò che succede in quella piazza, un po' come dicevi anche tu con il fatto, no, dell'inchiesta sui Notav. Ma allora, indubbiamente, e poi arrivo al tema della devastazione, al tema di Genova, indubbiamente uno dei problemi più delicati in tutti gli interventi giudiziari che riguardano manifestazioni è proprio quello di riuscire a distinguere le posizioni di ciascuno. Questo è il problema di sempre, non è il problema che riguarda un certo reato. Ed è un problema che accade dappertutto. Io ho fatto anche nel libro l'esempio dei Rio di Londra dell'agosto dell'anno scorso, sì, che hanno portato quelle ribellioni sui sobborghi di Londra per ragioni di carattere sociale più che di carattere politico o di carattere, se volete, di ribellismo diffuso. Bene, sono state arrestate migliaia di persone, sono celebrati dei processi al ritmo, hanno calcolato i giornalisti, di uno ogni quarto d'ora, è stata assunta addirittura una idea di concorso che ha dell'incredibile, e il Times, se ricordo bene, comunque certamente non un giornale estremista, che in prima pagina segnalava il fatto di una condanna di due che su Facebook avevano invitato ad andare in una certa piazza per partecipare all'assalto a un grande magazzino, a non so che cosa, stati condannati anche se in quella piazza non è successo nulla. Nel senso che sì, per incitamento sì, c'era, questo era un po' il paradigma di quello che erano i processi londinesi. Ecco, allora, questo è il primo problema, secondo me, delicato, e cioè quello di distinguere in un contesto delle condotte che sono tra loro diverse o che possono essere tra loro diverse. In secondo luogo c'è il problema a cui si faceva riferimento, e cioè il diritto non è una scienza esatta, è una scienza in cui i giudici devono fare delle scelte. L'esempio della devastazione. La devastazione è un reato che va in qualche modo al limite con il danneggiamento aggravato, sono cioè due reati in cui si parla di danneggiamenti, distruzioni, rotture di vetrine, incendio di un'auto, girare un cassonetto, tutto questo tipo di condotte possono essere inquadrate nel danneggiamento aggravato o nella devastazione. La differenza non è però solo un nome, è che il danneggiamento aggravato ha come pena minima quella di 6 mesi, la devastazione ha come pena minima quella di 8 anni. Sì, 8, 7, evidentemente la conseguenza non è piccola. Allora, come si sceglie tra un reato e l'altro? Io faccio una riflessione di carattere storico. Il danneggiamento in Italia, se si fa una ricerca, cioè la devastazione in Italia, se si fa una ricerca storica, è stata applicata fino ai primi anni 2000, cioè fino a Genova o qualche altro fatto parallelo a Genova, in 3 settori soltanto. Primo, i terroristi altoatesini, nella notte dei tempi, cioè i tralicci, i fatti saltare, eccetera. Secondo, le ribellioni nelle carceri. Terzo, i tifosi del calcio. Questi sono stati i destinatari del delitto di devastazione. Per quanto riguarda l'ambito complessivo delle manifestazioni, diciamo così, politiche, sociali, di piazza, la norma sostanzialmente non è stata applicata, anche se nei 50 anni della storia della Repubblica ci sono stati, a partire dai moti dopo l'attentato a Togliatti, a Genova 60, a Torino Corso Traiano, una serie di vicende di grande rilevanza che ben potevano essere inquadrate in una o nell'altra fattispecie. Si arriva agli anni 2000 e la devastazione viene applicata in diverse occasioni, a Torino, a Milano, Viale Buenos Aires, in una serie di altri fatti, a Genova, nelle vicende del luglio 2001. Allora, io credo che qui si ponga un problema non di... E questo è secondo me il dato su cui bisogna riflettere proprio perché ci sia un dibattito attento sul punto. Qui non si tratta di dire che sono state inventate delle norme. Il problema è di una, come dire, attenzione, di una valutazione dei giudici rispetto a due opzioni interpretative possibili. Nella storia della giurisprudenza ci sono delle diverse interpretazioni possibili. Io credo che il compito delicato del giudice sia quello di valutare l'intera situazione e di trovare la norma corrispondente a quel tipo di specie, tenendo presente che, se anche andiamo a guardare qual è l'etimologia della parola stessa, devastazione, non a caso unita a saccheggio, perché il reato è devastazione o saccheggio, fa pensare ai barbari che fanno tabula rasa di una città o di una, cioè, fa pensare a ipotesi che siano, mi sembra, di dimensioni assolutamente eccedenti quella che è l'insieme delle vicende che noi vediamo. Ora, a leggere i giornali, io non ho ancora visto la sentenza, ma perché non è stata depositata, ma a leggere i giornali, per esempio, già il GIP di Roma, in uno dei processi sui fatti di San Giovanni, sì, il 15 ottobre, che ha condannato per resistenza quel ragazzo che si vede con un estintore che lo lancia verso... Sì, 3 anni di carcere. E contemporaneamente ha escluso il reato di devastazione. Sarebbe stato anche difficile. I giornali gli era stato contestato. Sì, sarebbe stato anche difficile imputare. Comunque la pena, visto che si tratta di un'immagine di un ragazzo che lancia un estintore, 3 anni, comunque è una pena forte, fortissima. E questo, siamo al terzo problema che dicevo in diritto. Il primo problema è la dimensione del concorso, cioè vedere chi viene ritenuto responsabile di reati. Il secondo problema è le ipotesi di reato che si applicano. Il terzo problema è o l'applicazione della carcerazione preventiva o l'entità delle pene che vengono combinate. E noi sappiamo che il nostro codice prevede per tutti i reati dei minimi e dei massimi della pena. Il giudice deve applicare la pena che ritiene giusta tra i minimi e i massimi, e la pena ritenuta giusta non è che sta nella mente del giudice, dipende dalla valutazione della gravità del fatto, dalla valutazione della personalità dell'imputato, dalla valutazione di una serie di elementi di questo tipo. Non c'è dubbio che in periodi di conflittualità sociale c'è una tendenza a infliggere pene più gravi per reati commessi nell'ambito del conflitto. Questa è una costante, sì, io credo che vada segnalata, vada indicata invece come strada quella che il giudice deve avere, la capacità difficile ma di non subire una serie di pressioni forti di opinione pubblica a usare sempre le soluzioni più repressive. Io ho citato, se ricordo bene, nel libro anche un pezzo di uno scrittore non certo particolarmente progressista, niente meno che Alessandro Manzoni, il quale nella storia della colonna infame dice che cedere alle pressioni della piazza, intesa questa volta piazza non come i manifestanti, sì, certo, ma come opinione pubblica, per i giudici non è un attenuante ma una colpa. No, che poi appunto è abbastanza lapalissiana poi, ed è quello che poi sistematicamente avviene a seconda dei periodi. In questo caso il 15 ottobre serviva la punizione, mettiamola così, la severa punizione, e le persone fermate, tra l'altro parliamo di ragazzi, tutti quelli che sono andati al processo, tutti molto giovani, intorno ai 20-21 anni, che si sono visti tra i 3 e i 5 anni per dei scontri di piazza, e spesso e volentieri perché loro sono stati filmati durante un'azione, durante quello che poi è stato, sono stati degli scontri diffusi in quel pomeriggio. Comunque parliamo di ragazzi incensurati che si sono visti appioppare una pena abbastanza forte, e è indubbio che il clima abbia contato su questo, come poi dubbio che il clima abbia contato sul fatto che i manifestanti no TAV fermati a febbraio, tra l'altro con delle accuse abbastanza particolari e anche un po', come si può dire, troviamo un termine, anche abbastanza poco provate, mettiamola in questa maniera, visto che c'era un po' di tutto, carcere preventivo, perché serviva in quel momento comunque colpire quell'area politica, quella comunità. E questo è avvenuto e sta avvenendo poi sistematicamente. Luca si è fatto 6 mesi di carcere preventivo, ad esempio. Ma allora, io su questo credo che serva, almeno da parte mia, come analisi della situazione, non Sì. rispetto ad altre forme che sono di mobilitazione politica, di sostegno e quant'altro, cercare un pochino di cogliere alcuni fili rossi che ci sono. Allora, io premetto, e lo dico perché credo che anche in queste circostanze debba essere detto che se dei reati sono stati commessi, i reati vanno perseguiti. Detto questo, devo dire però che questo tipo di irrigidimenti, usiamo questo termine, della risposta giudiziaria, sia in punto estensione del concorso, sia in punto individuazione delle fattispecie di reato, sia in punto entità delle pene, è un fatto che anziché risolvere il conflitto, lo rende ancora più aspro e ancora più acuto. Credo che sia invece l'unica risposta possibile, una risposta di carattere politico, una risposta, come dire, di apertura al confronto politico. Ripeto, non facile, a me non piace fare della demagogia, non dico che con la bacchetta magica, soprattutto in una situazione di difficoltà, di tensioni sociali, di interessi contrapposti come quelli attuali, si risolva dicendo dialoghiamo, perché poi per dialogare ci vogliono tante condizioni. Però quello che è importante chiarire è che una doppia possibilità di cultura, una cultura che guarda anche alla manifestazione, anche al conflitto, come una delle manifestazioni della democrazia, e un'altra concezione che guarda al conflitto come un fatto comunque negativo a cui bisogna dare una risposta di ordine pubblico e di carattere penale. La seconda concezione ha come conseguenze, in qualche modo inevitabile, quelle di cui abbiamo parlato fino adesso. Io credo che bisogna, anche politicamente, cercare di riaprire un terreno verso la prima prospettiva, ed è questa la ragione per cui Marco Revelli ed io abbiamo scritto questo libro, è la ragione per cui abbiamo fatto una serie di appelli nei mesi scorsi rispetto a quanto accadeva in Val Susa. I risultati per ora non hanno avuto i risultati che noi auspicavamo. Credo che si debba attivare proprio per ripristinare forme e modi di confronto e anche di conflitto, perché il conflitto di per sé non è che sia un fatto negativo, è un dato fondamentale nella storia dell'umanità. Ma si è riportati in canali che non ne affidino la soluzione soltanto alla polizia e ai giudici. Perfetto, infatti, guarda, chiuderei con una battuta, che il confronto si fa in due, il confronto politico, cioè si confronta sempre tra due parti, e visto che una delle due parti finora si è sottratta al confronto, e questo poi fondamentalmente è uno dei problemi, visto che la valle poi lo scontro in valle si è radicalizzato, anche perché il confronto non c'è mai stato, e anche chi ha chiesto il confronto per anni si è visto sempre sbattere la porta in faccia, e la radicalizzazione non poteva che essere inevitabile. Noi ricordiamo nuovamente il libro scritto a quattro mani, Lino Pepino, Marco Revelli. Il titolo è Non solo un treno, grazie dello spazio donatoci, e a presto. Arrivederci. Ciao ciao. Le nettoyage, le périph' et des lunettes vision. J'avais de l'horizon, j'ai donc refusé que mon quartier devienne ma propre prison. Frérot, depuis tout petit, je suis déter. J'ai refusé que le ghetto puisse me faire l'effet de l'éther. Sur mon cerveau d'ado, j'ai pris la vie par le manche pour ressembler à mes héros. Sans une once de revanche, je rêve de l'Eldorado. Moi j'en rêvais juste, viser la grande balle. E tra poco riprenderemo andando a sentire Eugenio Losco, avvocato che si occupa dei processi di migranti accusati di devastazione e saccheggio per la rivolta di Via Corelli in quel del CIE di Milano. Ovviamente abbiamo sentito chi di lavoro fa, in questo caso un ex magistrato, ora sentiremo un avvocato. Ovviamente i discorsi sono più tecnici che politici, ma poi la... sono anche la politica in qualche modo ha tutto il suo interesse in questo frangente. Raccontavo appunto del reato di devastazione e saccheggio, quanto poi fondamentalmente sia un reato usato a uso e consumo della politica. Dodici e 35, di nuovo buongiorno, questa volta con Eugenio Losco. Ciao. Buongiorno a tutti, ciao. Eccoci qua. Allora, stavamo parlando, noi questa trasmissione nasce non soltanto per cominciare a parlare, a fare alcuni ragionamenti che non sono assolutamente nuovi, però che abbiamo deciso poi di portare in piazza martedì 3 luglio ore 18:30 qui a San Lorenzo, questo convegno sulla costruzione del nemico e la criminalizzazione di cosiddetti indesiderati. Un termine che abbiamo usato indesiderati perché è trasversale, non sono gli indesiderati semplicemente i politici, il nemico che viene costruito è diverso, ci sono gli antagonisti politici, è vero, ci sono i migranti, come ci sono poi, no, una serie di comportamenti che ormai sono giudicati deviati e devianti che devono essere colpiti. Tu in questo caso, visto che ti stai occupando delle rivolte dentro i CIE di Via Corelli, a cui i cosiddetti rivoltosi si ritrovano accusati attraverso un reato che è l'articolo 419, quello di devastazione e saccheggio, ne abbiamo parlato anche prima, continuiamo a parlarne in maniera a volte anche un po' ridondante, però perché ce n'è bisogno e perché anche in questo caso è stato usato un po' come una clave punitiva e un uso, dicevamo un attimo fa, uso e consumo come strumento politico, e così ci sembra anche in questo caso, visto i processi che stai seguendo. Certo, guarda, hai ragione che è stato usato questo tipo di fattispecie in modo del tutto sconsiderato. È stata contestata dalla procura questa devastazione e saccheggio, probabilmente la procura ha deciso di alzare il tiro anche nei confronti degli episodi che si susseguono dentro i centri di identificazione ed espulsione, in particolare in quello di Milano. Nel corso di questi anni, soprattutto dopo le varie modifiche che hanno aumentato il periodo di detenzione presso queste galere amministrative, le rivolte si sono susseguite e sono aumentate. Io non vorrei che fosse, questo potrebbe essere un segnale che ha voluto dare la Procura per cercare di limitare e di far cessare le legittime rivolte di questi stranieri che si trovano detenuti senza aver commesso un reato. Mai fino ad ora io seguo questo tipo di proteste, ormai da anni. Abbiamo fatto già un primo processo nel 2004 e da adesso al 2012 avremo seguito una decina di processi. Questo è sicuramente la prima volta che viene contestato un reato così grave e contestato in maniera assurda. Teniamo anche presente che a Milano fatti di devastazione e saccheggio si possono contestati dalla Procura, si possono contare sulle dita, e a me ne vengono in mente solo due, perché poi uno lo sto seguendo e anche l'altro in parte l'ho seguito, l'altro è quello per i fatti del 2006, dell'11 marzo, Buenos Aires, che immagino ricorderete anche voi. Sì, l'11 marzo 2006, assolutamente. L'11 marzo del 2006. Purtroppo non ha avuto un buon esito, perché come sappiamo poi la devastazione e il saccheggio in quel caso poi ha avuto anche conferma in Cassazione, nonostante, io mi ricordo benissimo, c'era stata una bellissima requisitoria del procuratore generale contrario alla devastazione, nonostante questo la Cassazione ha confermato per quegli episodi la devastazione e il saccheggio. Comunque, sì, che tra l'altro anche in due casi negli ultimi anni è stata contestata la devastazione e il saccheggio. Sì, tra l'altro è anche particolare, perché andandosi a leggere l'articolo, lo dicevamo anche prima, la devastazione e il saccheggio prevede comunque un'area enorme di intervento devastatorio e saccheggiatorio, diciamo così. Però in questo caso l'11 marzo sono successe delle cose, comunque fondamentalmente tutto in un breve lasso di tempo, in quel di Corso Buenos Aires, in una via, poi fondamentalmente. Ma non nella via, in 100 metri di sì, via, appunto, no, dicevo. Di un Corso Buenos Aires, cioè, effettivamente è una via molto grossa, ma stiamo parlando di uno spazio limitatissimo, incroci, infatti. È uno spazio di 100 metri quadrati per un periodo di tempo, forse di 20 minuti. E lo stesso avviene in questo caso anche dentro i CIE, perché sì, qua è ancora più assurdo, perché qua la Procura confonde la devastazione con un danneggiamento molto grosso, che poi alla fine non lo è neanche. La devastazione e il saccheggio deve essere qualcos'altro dal danneggiamento, da più cose danneggiate. Non è che più cose danneggiate determinano automaticamente la devastazione e il saccheggio. La devastazione e il saccheggio ha dei requisiti oggettivi specifici, e quello fondamentale è che vi sia un pericolo all'ordine pubblico, all'ordine costituzionale. È assimilabile a una specie di rivolta, a una guerriglia. È stato studiato per questo la devastazione e saccheggio, quindi è assurdo che venga contestato all'interno di un centro di detenzione amministrativo, nello specifico all'interno di un settore di questo centro controllato costantemente dalla polizia, dove c'è un circuito di videosorveglianza. Non vi era alcun motivo ovviamente per contestare tale tipo di reato. Sì, una cosa abnorme, guarda. Una cosa abnorme. Io sì, magari sto parlando senza mai fermarmi, ma io sono così arrabbiato per questo fatto che non riesco a fermarmi, perché poi tra l'altro il processo è già iniziato ed è subito emerso dalla relazione dei vigili, dall'ingegnere dei vigili che è venuto a testimoniare, che in realtà sono bruciati solo dei materassi. All'interno di questo settore non si è mai sviluppato un fuoco, c'è stato solo del fumo, non sono stati creati danni alla struttura, ma sono bruciati solo materassi e arredi. Questo è per quello per cui si sta procedendo per devastazione del saccheggio a Milano nei confronti di questi poveri stranieri. Sì, però appunto il fatto che siano, anche qui nasce in maniera punitiva, no? Le rivolte dentro i CIE, come dicevi giustamente, sono sempre più diffuse, visto che l'enormità dell'attesa, perché poi qui si parla di attesa, visto che non c'è un reato, vengono parcheggiati dentro i CIE, perché serve anche quello, no? In maniera punitiva per colpire la cosiddetta clandestinità e fare una sorta di colpirne 100 per educarne nessuno fondamentalmente, però colpirne 100 per spaventarne 1000, questo è un po' quello che fa. Nello stesso tempo, se provi a rivoltarti, a questo punto ti colpisco ancora più duro, e in questo caso è assurdo, è allucinante come ormai nel sistema giuridico italiano, lo diciamo e lo continuiamo a ripetere anche da, appunto, attraverso questo convegno che faremo, ed è Genova, in questo è paradigmatico, il colpire le cose è diventato molto più grave che il colpire le persone. Assolutamente vero. Di conseguenza avremo dei migranti che, in quanto migranti, perché se fossero stati dei colletti bianchi sarebbe stato diverso, dei colletti bianchi, se dentro una fabbrica dei colletti bianchi avessero incendiato una scrivania, probabilmente non staremmo qua a parlare di un processo per devastazione e saccheggio. Questo è poco, sì, ma sicuro. Ma questo è evidente, è una scelta politica. Si vuole colpire proprio quelle persone e si vuole evitare che si susseguano questi ripetuti episodi di protesta più che legittima nei confronti di questi centri. Tra l'altro vengono colpite delle persone che non hanno nessuna copertura politica, perché poi a difendersi i migranti fondamentalmente c'è poca gente, soprattutto non c'è la politica, tra virgolette, quella, no? Quella che decide, quella che conta, come la chiamano loro, e quella che poi fa passare leggi come la Bossi-Fini, come il decreto Maroni e via dicendo. Loro non ci sono, non appartiene a nessuno, queste persone non appartengono a nessuno, dentro i CIE, che continuano a essere dei non luoghi, perché questo è il è un non luogo che fa a pizze con qualsiasi sistema democratico. Tutto questo avviene e ci si può anche permettere di provare a condannare i migranti per diversi anni. Ne parlavamo prima, il reato di devastazione e saccheggio prevede un minimo di 8 anni. Questo è. Tra l'altro, io vi ho detto tutte queste cose, e noi abbiamo scelto di fare un rito ordinario. Non solo ovviamente per contestare l'accusa di devastazione e saccheggio, ma anche per far emergere la situazione complessiva all'interno di questi centri, per dimostrare quello che succede, per dimostrare i comportamenti illegittimi che vengono adottati dalle forze dell'ordine dentro questi centri, e il potere ampiamente discrezionale che è mandato alle forze dell'ordine, perché come ben sapete non ci sono degli espressi regolamenti che disciplinano questi centri, ma tutto è demandato alle strutture civili, ad esempio come la Croce Rossa, che si debbano occupare della questione tra virgolette di assistenza, ma molto tra virgolette di assistenza, molto tra virgolette, e dell'ordine pubblico, che invece è mandato alle forze di polizia. Noi abbiamo molto insistito su questo punto, su questo aspetto, e per la prima volta il Tribunale ci ha concesso di sentire molti testimoni su queste circostanze, e nelle prossime udienze sentiremo addirittura la dottoressa Pria, che è proprio la responsabile delle politiche immigratorie del Ministero dell'Interno. Sentiremo poi dei giornalisti che sono entrati presso il centro. Noi vogliamo cercare di ribaltare la situazione, insomma. C'è uno strumento, guarda, questa è una domanda ti chiedo, ma c'è uno strumento per aprire veramente anche una discussione, proprio anche tra giuristi stessi, sull'articolo 419? Perché anche la tendenza, no, a usare questo articolo, che c'è stata ultimamente, Genova ha un po' stappato, ha riesumato questo articolo, era stato un paio d'anni prima per una manifestazione a Torino, era stato portato così, ritirato fuori, però Genova è stata un po' l'apripista, poi usato, come hai detto bene tu, nel 2006 a Milano, era stato 2003 per alcuni fatti riguardanti lo stadio. Però c'è uno strumento per aprire una discussione su questo articolo, che è tornato di moda perché appunto viene usato strumentalmente e politicamente? Beh, uno strumento, non mi viene in mente lo strumento, ci vuole un coinvolgimento anche da parte dei giuristi, perché per il momento non ce ne si è occupato sufficientemente, e lo spunto della Cassazione per i fatti di Genova deve essere preso da parte di tutti, quindi anche la manifestazione che state organizzando, il dibattito del 3 luglio, può essere un momento per sottoporre di nuovo all'attenzione anche ai tecnici il reato del 419. Speriamo anche che il processo di Milano. In realtà sappiamo che la gente non interessa questa tematica. Sì, non interessa, come interessano a pochi quello che succede dentro i CIE, perché anche qui in fondo colpisce i migranti sono non cittadini di conseguenza. E questo è vero, io ho notato che c'è qualche anno fa, anche da parte del, vogliamo dire, del cosiddetto movimento, c'era più interesse anche verso queste tematiche dell'immigrazione. Purtroppo ultimamente devo dire che siamo sempre di meno, siamo sempre più pochi. Sì, c'è un riflusso abbastanza generalizzato e ovviamente colpisce. C'è un riflusso anche generalizzato. Poi colpisce. Però bisogna tenere sempre alta l'attenzione. Guarda, ti ringrazio per questo contributo, tanto noi ci risentiremo prossimamente proprio per parlare del processo di Via Corelli, perché l'attenzione va mantenuta alta, e se non lo facciamo noi attraverso radio come la nostra difficilmente viene fatta, ecco, perché tanto. Ricordando che poi il 6 luglio inizia un altro processo per cui bisogna tenere alta l'attenzione. Sì, assolutamente, anche lì si sta giocando sulla pelle di diverse decine di persone che già hanno fatto del carcere preventivo, così. Sono ancora in carcere? Sì, alcune sì. Ho ancora delle persone che sono detenute, ho ancora dei miei clienti che sono agli arresti domiciliari. Infatti, lo stavo... Questa è una cosa piuttosto scandalosa, so che è un altro tema, ma il tema della custodia preventiva è molto ma molto grave. Sì, infatti chi non è più in carcere, comunque, mettiamola così, chi non è più in carcere è in carcere dentro casa, mi viene in mente. Sì, che è del tutto assimilabile. Sì, tutto assimilabile. Gente che appunto, anche chi è riuscita a uscire dal carcere già 3-4 mesi fa, comunque sono 3-4 mesi che sta agli arresti domiciliari. Stare regime... agli arresti domiciliari è difficilissimo, tra l'altro può comportare il fatto che tu perda il lavoro, insomma è veramente una cosa, uno strumento fortissimo. Sì, tra l'altro non dimentichiamo, e poi andiamo a chiudere che tra appunto riguardo la sentenza di Genova, ai nostri 10, come li chiamiamo noi, 11 anni dopo una decina di persone rischiano di tornare seriamente in carcere perché viste le pene commutate. Sono quasi 100 anni di detenzione, sì. Mi sembra. Sì, sono 98, quasi 99 anni, comunque una decina d'anni a testa come media, comunque si parte dai quasi 7 anni, 6 anni, 8 mesi di quella più bassa fino ai 15 anni. 15 anni, sì. E parliamo appunto di persone a cui si apriranno le porte di un carcere, perché indulti, non indulti, sconti, quello che vuoi, tutti hanno già fatto il carcere preventivo, però proprio un discorso anche qui tecnico di anni, entreranno in carcere quasi tutte. Noi ci auguriamo che questo non avvenga, ci auguriamo che la Cassazione annulli questo processo, ci crediamo non troppo, visti i precedenti poi. Bisogna essere onesti, speriamo. Uno ci prova, però ci spera, però visti i precedenti ci crediamo veramente molto poco. Speriamo che a Via Corelli anche si riesca a uscire fuori, quantomeno a togliere l'imputazione del 419 ai migranti, che vuol dire che tutto ciò che viene dopo comunque saranno delle pene più basse, perché quindi sì, anche loro rischiano. Comunque la sentenza è intorno al 18 luglio. Appunto. E vedremo. Vedremo anche qui. Sarà una bella estate, mi viene in mente. Va bene. Ciao, grazie Eugenio. Ciao. A presto. A ciao, ciao. Alle 12:51 noi andiamo a concludere.